Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180 4001, oppure in modo telematico è consultando il sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è sostieni per la modalità, le modalità telematiche. Ci ascoltate su queste frequenze e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è ascolta la diretta. Questo è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, spesso e volentieri subito dopo il giornale radio delle 13. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica e visionari@ondarossa.info. Eccoci con Fabrizio Accattino, vice direttore della 17esima edizione del Sotto 18 Film Festival a Torino dal 18 novembre al 13 dicembre. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori. È un festival che abbiamo seguito un po' a intermittenza, alcuni anni tutti gli anni, e poi però l'abbiamo un po' perso di vista. Ci racconti un po' intanto quali sono le caratteristiche che un po' il titolo già indica di questo festival? Questo è un festival che si occupa di cinema dei giovani, che ha una sezione di concorso dedicato ai registi under 18 o singoli oppure facenti parte insomma di laboratori scolastici. È un festival per i giovani perché ha comunque pellicole che hanno come target designato gli adolescenti, e sono sui giovani perché comunque hanno anche una serie di anteprime che hanno i giovani come tematica, come sfondo d'ambientazione dei film. Poi da quest'anno in particolare si è deciso di aprirsi alla cosiddetta cross-medialità, per usare una parolaccia che gira in questi tempi, e quindi aprirsi anche alla letteratura, al web, al fumetto, in generale insomma i media che in qualche modo entrano di prepotenza nella cultura giovanile, e di ampliare anche il target, visto che oggi 18 anni non è che siano un punto di svolta particolare, se non da un punto di vista così legale, però quest'anno il target saranno anche gli universitari, tanto che la manifestazione ha parzialmente cambiato nome in Sotto 18 Film Festival and Campus. Ok, senti, quante sono le opere che presenterete per questa edizione? Ci saranno una 25 proiezioni, okay. Una più una meno sono 25. Ci saranno una serie di ospiti e ci saranno una serie di eventi collaterali che credo insomma saranno piuttosto interessanti. Ci sarà un concerto d'apertura il cui direttore artistico sarà Max Casacci del Subsonica, che poi interverrà anche come musicista insieme a tutta una serie di musicisti della scena rock torinese, del passato e del presente. Credo che sarà una bella serata di festa e di energia. Ci sarà la mostra dedicata a Dylan Dog, che inaugura questo oggi pomeriggio, in cui ci sono 200 opere originali di Dylan Dog, dalle tavole alle copertine, agli sketch, alle illustrazioni, sai, ed è ospitata da una pinacoteca storica di Torino, una pinacoteca ottocentesca, la Pinacoteca Albertina, che ha delle collezioni permanenti di grandi artisti del passato, paesaggisti, fiamminghi, Audenzio Ferrari, insomma, per cui si è voluto creare, vedremo insomma se piacerà al pubblico, si è voluto creare un contrasto tra l'arte classica e l'arte contemporanea, l'arte pop a cui il fumetto appartiene. Poi ci sarà un momento dedicato ad Alessandro D'Avenia, scrittore molto amato dalle nuove generazioni, che ha scritto libri come Bianca come il latte, Rossa come il sangue, che ha avuto anche una sua trasposizione cinematografica di successo. Sarà una serata dedicata a lui in un teatro da 1200 posti che ha fatto sold out in 4 ore. Ci sarà un po' di eventi che accompagneranno le proiezioni classiche di un festival di questo tipo. Senti, ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Sì, il programma, che non è ancora online ma lo sarà dal giorno della conferenza stampa, cioè tra il 28 di novembre, è www.sotto18filmfestival.it. con tutti i vari presidi social, Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Quindi lì, diciamo, ci sarà l'aggiornamento in tempo reale. Ok, noi ci siamo sentiti chiaramente prima dell'inizio vero e proprio del festival, per lanciare questo appuntamento con la mostra, no? Sì, oggi è l'anniversario, diciamo, alle 6 inizia. Sono tutti un po' tesi, tutti i vernissaggi che si rispetti, anche perché poi tra l'altro questi pezzi vengono a collezioni in giro per l'Italia e per l'Europa, da Roma, Parma, Verona, Lugano, Edimburgo, per cui insomma è stata una, per essere un evento tra virgolette collaterale del festival, si è impegnato quanto un festival più o meno, quindi tutto il coordinamento, le assicurazioni, l'allestimento, la grafica, è stato un lavoro complesso che oggi in qualche modo trova il suo sbocco, la sua emersione alla luce. So che è interessante, perché credo che sia una, per chi ama il personaggio, credo che sia una carrellata il più completa possibile di 30 anni di avventure, dal mitico numero uno e i suoi bozzetti preparatori fino alla copertina del numero che uscirà tra 2 mesi in edicola, presentata in anteprima. Credo che sia, chiama il personaggio, credo che avrà modo di sfogliare questo album delle fotografie enorme che di fatto costituisce la mostra. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci grazie presto. Grazie mille, Crepi. Senz'altro, molto volentieri. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Fabrizio Accattino, vice direttore della 17ª edizione del Sotto 18 Film Festival a Torino dal 18 novembre al 13 dicembre. Eccoci nuovamente con Valerio De Paulis di Cinema Distribuzione per parlare con lui del film La Verità Negata, in uscita in sala oggi giovedì 17 novembre 2016. Valerio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Buongiorno a voi e a tutto il pubblico che ci ascolta. Buongiorno. Allora, il film l'ho visto ieri sera, notevole, devo dire notevole. Raccontiamolo un po' a chi ci ascolta, Valerio. Sì, è un fatto vero, una storia realmente accaduta alla fine degli anni 90 in Inghilterra. C'è un famoso negazionista inglese che si chiama David Irving. Il negazionista è quello che è colui che nega qualcosa. Bene, questo David Irving nega l'esistenza, nega che ci sia stata un vero accanimento contro gli ebrei da parte di Hitler. Dice che gli ebrei, che i campi di dove gastavano gli ebrei in realtà erano campi di prigionia, quindi nega un po' tutta questa cosa, che tutti questi avvenimenti storici che noi sappiamo essere esistiti, che hanno portato alla morte di 6 milioni di ebrei. Lui dice che Hitler non ce l'aveva, diceva che non ce l'aveva particolarmente con gli ebrei, che gli ebrei erano nemici del Terzo Reich, così come altre popolazioni, e quindi in un libro di questa grande giornalista americana interpretata da Rachel Weisz, che appunto lo sbeffeggia, lo irride dicendo, lui si arrabbia e la cita, la porta in tribunale dicendo che lei deve dimostrare che quello che lui ha detto non è vero. Ecco, questo è un po' il tema del film, quindi poi l'azione all'inizio noi conosciamo lei, conosciamo lui, conosciamo tutti gli avvocati, e poi il film diventa un po' un legal thriller, perché si sposta in tribunale e quindi ci sono le varie sedute in cui alla fine poi si decide, il giudice giudicherà e deciderà chi ha torto e chi ha ragione. Oh, è un film basato chiaramente sul processo e con tante variabili che entrano in campo, per quello che poi comunque in Italia è arrivato con una debolissima eco come processo. Beh, perché l'Italia, come noi sappiamo, ma non lo dico, lo dico perché è vero, è un paese un po' provinciale, non è che si interessa di quello che succede un po' nel resto del mondo. Anche la stampa è sempre molto concentrata su sui fatti italiani. Devo dire che sicuramente se ne è parlato di questo processo anche in Italia, però non ha avuto quel clamore che ovviamente ha avuto in America e in Inghilterra. Sì, sì, sì. Questo sicuramente. Uno dei punti, alcuni dei punti cardine della strategia difensiva della giornalista riguardavano il fatto che lei non dovesse proprio entrare in fase dibattimentale. Ma sì, perché questo gruppo di avvocati, che poi sono stati anche quelli che hanno sponsorizzato la principessa Diana nel suo divorzio, è un gruppo di avvocati, è tutto vero, il film si parla di una storia precisissima, cioè loro sostenevano che se lei avesse deposto, così come se avessero deposto dei reduci dei campi di degli ebrei reduci di campi di concentramento, il negazionista li avrebbe attaccati brutalmente e li avrebbe un po' ridicolizzati, soprattutto perché si sostiene nel film che questi poveri reduci, questi poveri sopravvissuti hanno un tale dolore, hanno un tale sentimento di disperazione quando ricordano queste cose, che non ricordano bene i fatti, che possono essere confusionati da uno che li attacca duramente. Quindi la cosa che sostengono gli avvocati è che loro devono dimostrare che quello che dice David Irving non è vero, e quindi è inutile che lei testimoni. Sì, sarebbe anche poi riconoscere un'autorevolezza e riconoscere proprio l'avversario, che in questo caso invece era ben poca cosa a livello comunque di storico, di studioso. Sì, no, storico. Ma certo che se uno non è interessato alla storia alla storia del mondo, a questa enorme catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, insomma, probabilmente il tema del film è poco interessante. Io personalmente sono molto attaccato all'idea che non bisogna assolutamente dimenticare lo sterminio degli ebrei. Penso che anche se sono passati 70 anni e se ne parla sempre meno, invece è un tema che va ricordato, perché ci sono dei ragazzi giovani che probabilmente non sanno chi è Hitler e non sanno quello che hanno fatto agli ebrei, e penso che questa è una cosa colpevole. Bisogna assolutamente fare in modo che questa cosa non si dimentichi, e quindi ognuno di noi fa nel suo piccolo, nel suo grande, quello che può fare. Io, quando ci sono dei film, io per esempio ho distribuito in Italia anche Shoah, che è un capolavoro di Lanzmann, di un regista francese, un capolavoro, un documentario di 9 ore, che è il più grande documento sullo sterminio degli ebrei. E al di là poi di questo, è un film molto bello da vedere, anche proprio come un po' come quei thriller legali americani, di quei film che si svolgono nei tribunali, dove sono gli avvocati che discettano, che combattono. Sono tre grandissimi attori: Rachel Weisz, che interpreta la giornalista americana, Timothy Spall, che interpreta il negazionista, e Tom Wilkinson, che è l'avvocato della difesa di Rachel Weisz, che insomma sono tre attori che insieme compongono un terzetto magistrale. Senti, quante copie La verità negata? 75. Come lo avete incontrato e come avete poi deciso la distribuzione? In che senso, come l'abbiamo incontrato? Dove avete, insomma, è stato... Il film l'abbiamo comprato a Cannes l'anno scorso. A Cannes era un progetto, girava questo copione, quindi l'abbiamo letto, ci piaceva, e insomma l'abbiamo comprato lì per là. Poi hanno girato il film piano piano, poi l'abbiamo portato, non era pronto per il Festival di Venezia, quindi l'abbiamo portato al Festival di Roma, dove ha avuto un successo molto molto grande, soprattutto nella sala c'erano 2000 persone molto molto soddisfatte di aver visto il film, che applaudivano insomma con grandissimo entusiasmo. Quindi spero che sia un film che piace, è un film molto per il pubblico, quindi penso che chi ci va gli dovrebbe piacere parecchio. Bene, allora Valerio, ricordiamo da oggi in sala La verità negata. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie infinite, buona giornata a tutti voi. Ciao. Valerio De Paolis, di Cinema Distribuzione, sul film La verità negata, in uscita in sala oggi giovedì 17 novembre. Eccoci con Mod Corino per parlare del progetto Zalab Distribuzione. Mod, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Allora, mi era arrivato questo comunicato che lanciava questa operazione che prende l'avvio, se non sbaglio, da domani con una serie di proiezioni. Ci racconti un po' il progetto? Sì, diciamo che da Zalab da oltre 10 anni fa distribuzione civile e propone chiunque di diventare organizzatore delle sue proiezioni. Quello che abbiamo fatto da 10 anni a questa parte è veicolare, come dire, i film dei nostri autori, dei nostri registi, mentre invece quello che lanciamo in questo momento, oltre chiaramente alla possibilità di chiedere proiezioni rispetto ai film che abbiamo già in catalogo, sono 2 nuovi film, 2 documentari internazionali che abbiamo in distribuzione. Il primo si chiama Patience Patience e avrà una sua prima proiezione a Roma, qui all'Apollo, il giovedì 24 novembre, ed è un documentario che racconta la storia di una serie di donne immigrate negli anni 60 in Belgio al seguito dei loro mariti, che dopo aver passato, come dire, una vita a occuparsi della famiglia e delle loro corvée casalinghe, raggiunte la vecchiaia e in qualche modo liberate da questa parte della loro vita, cominciano a innanzitutto diventano amiche, a formare un gruppo, a cominciare a fare una serie di attività insieme, dal corso di lingua alle gite, a gite insieme, fino addirittura a organizzare un viaggio a New York. Ed è una storia molto delicata, molto intima, sul femminile, sull'Islam, che parla anche di migrazione, di integrazione, e con un tono da commedia, insomma un documentario in cui si può anche, come dire, ridere. E poi altre cose in programma? Altre cose in programma, abbiamo anche un altro film che distribuiremo a partire da dicembre, è un film che si chiama Gay by Baby ed è un film australiano di una regista che racconta le storie di 4 bambini figli di famiglie gay, che è un tema, come dire, di attualissimo dibattito. In moltissimi paesi ancora non è possibile sposarsi e meno che meno adottare dei bambini, però questa cosa c'è, succede e si fa, e questo film è molto delicato e racconta, come dire, la storia di questi 4 bambini che hanno più o meno sui 12 anni e come dire, il rapporto con le loro famiglie, anche le difficoltà che incontrano rispetto alla società, alla scuola, ai compagni di classe, alla religione, al fatto di essere, non lo so, uno di loro è figlio di una famiglia profondamente cattolica. Senti, per quanto riguarda questi titoli, avete deciso anche uscite cadenzate? Guarda, abbiamo delle prime proiezioni a Roma e su Padova. Okay. Con un calendario che si può trovare sul nostro sito, che è www.zalab.org. Sì. E quello che facciamo da sempre è una distribuzione in qualche modo dal basso e partecipata, in cui chiediamo che proprio siano le associazioni, i liberi esercenti, i cittadini che sono interessati a questo tema a contattarci, e ci possono contattare attraverso appunto il sito, attraverso la nostra mail che è distribuzione@zalab.org. per richiedere di fare una proiezione. Quello che diciamo è, anche se non avete ancora un'idea precisa di un luogo, di un modo per organizzarla, sentiamoci e troviamo il modo di farlo insieme. C'è comunque una rete di sale disponibili con cui già state interagendo da tempo? Sì, vabbè, noi abbiamo un rapporto ormai consolidato con Apollo 11 qua a Roma, e in corso un progetto che fa anche parte dei progetti di Zalab a Padova, che si chiama Ex Cinema, e che coinvolge 4 sale che fanno, come dire, una programmazione, una piccola circuitazione ogni settimana rispetto a un documentario diverso. Benissimo. Poi stiamo organizzando rispetto al lancio di Patience Patience a novembre delle date su Milano, e poi a partire dal prossimo anno su Genova, Caserta, eccetera, ci sarà un calendario sempre più fitto di appuntamenti. Benissimo, allora i riferimenti ce li hai dati. Per quanto riguarda i titoli, vediamo poi se riusciremo con una certa cadenza a dare conto delle vostre uscite, magari con delle telefoniche proprio o magari all'inizio di ogni mese. Vediamo un po' come funzionerà anche per voi. Certo. Nel frattempo un abbraccio e a risentirci presto, Maud. Va bene, grazie mille. ciao. Maud Corino di Zalab sul progetto Zalab Distribuzione. In collegamento con Fabrizio Grifasi, direttore di Roma Europa Festival, su Music for Solaris, all'Auditorium Parco della Musica qui a Roma il prossimo 20 novembre. Fabrizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi e ben ritrovati. Allora, per chi ci ascolta, intanto diciamo cos'è Roma Europa Festival e qual è il suo concetto, qual è la sua missione? Roma Europa è un festival che da 31 anni si svolge a Roma, dedicato alla danza, alla musica, al teatro e alle arti digitali. È un festival di creazione contemporanea che presenta tanti artisti internazionali, ma anche sostiene tanti artisti romani e italiani. Si svolge in una ventina di spazi diversi all'interno della città. È cominciato il 21 settembre e andrà avanti fino al 3 di dicembre. Senti, vista questa lunga storia, anche rispetto al periodo storico che ha attraversato, come si sta trasformando il Roma Europa? Roma Europa si trasforma perché, se vuole raccontare il nostro tempo, deve necessariamente anche trasformarsi con il nostro tempo. Quindi da un lato tiene fede, accompagna una serie di artisti, sia internazionali che italiani, a cui è molto legato, per esempio nel teatro Emma Dante o Romeo Castellucci, nella danza internazionale Akran Khan e tanti altri. Dall'altra parte, ovviamente, ha un'esigenza profonda ogni anno di cambiare, di ospitare, per esempio oltre la metà degli spettacoli che noi facciamo quest'anno sono artisti che sono a Roma Europa per la prima volta. Questo è un altro elemento molto importante per noi, quello in qualche modo di dare uno spazio, un'opportunità e quindi anche accogliere chi non è mai stato al festival. L'altro elemento molto importante è che Roma Europa sta in spazi molto diversi, lavora con strutture molto diverse, dalle strutture indipendenti alle strutture istituzionali. Questa trasversalità c'è anche in qualche modo il tentativo di raccontare la complessità di una città come Roma, dove ci sono tante energie, tante opportunità, tante possibilità non sempre valorizzate, che invece vanno sostenute. Fabrizio, arriviamo al progetto Music for Solaris. Come nasce? È un progetto che nasce da due musicisti islandesi, sono Daniel Bjørnson e Ben Frost, e da due artisti che si sono concentrati invece sull'aspetto visivo, che sono Brian Eno e Nick Robertson. Sostanzialmente un grande omaggio al film di Tarkovsky, non è la riproposizione del film, perché Bjørnson e Frost, Bjørnson in prima persona con Frost, hanno composto appunto una musica ispirata al film, e Brian Eno e Nick Robertson hanno preso alcuni dei fonogrammi del film e li hanno trasformati in delle grandi installazioni che saranno proiettate su un mega schermo all'interno della Sala Santa Cecilia. E quindi è un viaggio musicale, un viaggio nelle immagini e nell'universo di Tarkovsky, ma è soprattutto un viaggio che appartiene appunto a Brian Eno, a Ben Frost, a Daniel Bjørnson e a Nick Robertson. L'altro elemento che vorrei sottolineare è che Bjørnson e Frost lavorano con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È la prima volta che si realizza un connubio di questo tipo. Noi facciamo molti progetti con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, penso che sia importante che un'orchestra così prestigiosa e così centrale nella vita musicale italiana abbia anche questo tipo di collaborazioni con musicisti che vengono da altre traiettorie e da altri mondi. Senti Fabrizio, quindi praticamente a quello che ho capito ci saranno dei fotogrammi del film rielaborati dai due artisti visuali. Brian Eno e Nick Robertson hanno scelto alcuni dei fotogrammi del film e li hanno trattati con, li hanno manipolati trasformandoli completamente. Assisteremo proprio a una specie di processo di morphing di alcune delle scene che diventeranno sostanzialmente delle installazioni artistiche. Sono immagini molto belle, molto di grande impatto, sono, ripeto, immagini che vengono dall'universo di Brian Eno e quindi in qualche modo dalla sua visione di artista contemporaneo. Tra l'altro Brian Eno era già stato a Roma qualche anno fa per una mostra sul futurismo con una sua creazione appunto sempre di tipo visuale. Esattamente, e tra l'altro alcune delle immagini che lui ha creato per Music for Solaris si inseriscono esattamente in qualche modo in questo percorso visivo che forse alcuni degli ascoltatori hanno già potuto vedere a Roma e in altre parti d'Italia. Senti, rispetto alle musiche create ex novo, in che rapporto sono con le musiche che utilizzava Tarkovsky? È completamente un altro tipo di universo, intanto okay. Una composizione essenzialmente tra archi con elettronica e strumentazione e chitarra e quindi più di appannaggio di Ben Frost. Diciamo che c'è un forte impatto lirico che in questo continua al solco, come dire, dell'universo sonoro che Tarkovsky aveva utilizzato. Quindi c'è un forte elemento di passione, c'è un forte elemento emotivo, perché per chi ricorda il film di Tarkovsky è un film straordinario sull'animo umano e che quindi toccava delle corde profonde di noi stessi, della nostra memoria, del rapporto con i nostri cari. Ecco, le musiche composte per Music for Solaris vanno esattamente in questa direzione, sono le musiche molto di grande passione, di grande emozione. Se non sbaglio, tra l'altro, il film che è arrivato in Italia aveva una durata di 1 ora e mezza, quindi era molto tagliato rispetto all'edizione integrale di Tarkovsky. Fabrizio, rispetto alla sua cinematografia, un po' in parte già lo hai detto in quest'ultima risposta, volevo dire quali sono gli elementi che la rendono universale e anche durevole nel tempo? Ma Tarkovsky tra l'altro ha avuto una capacità di anticipazione assolutamente straordinaria. Io vorrei ricordare, per ritornare ancora una volta a Solaris, sì, che tutta una serie di immagini del pianeta furono realizzate in un periodo storico in cui delle animazioni di computer non esistevano. Sì. E per chi ricorda quelle immagini, no, del pianeta, ecco, io vorrei ricordare che tutta quella roba lì fu realizzata con mezzi che non avevano assolutamente nulla a che fare con quelli che attualmente si possono utilizzare nell'effettistica cinematografica. Sì. Per cui io direi sicuramente un grande anticipatore, sì, un grande visionario, ma anche un artista profondamente legato al nostro animo umano e quindi in qualche modo desideroso e bisognoso in qualche modo di non perdere mai la necessità di raccontare la nostra intimità più sensibile, più bella. Queste immagini straordinarie dei suoi film sono qualcosa che emoziona quando le si ricordano. Senti, oltre al lavoro di questi quattro artisti, il contributo la performance dell'orchestra del conservatorio? No, è l'orchestra dell'Accademia Nazionale. Ah, dell'Accademia, scusami. È proprio l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ecco, quale sarà il suo contributo in questo contesto? Diciamo sono i protagonisti. Sono i protagonisti. Sono i protagonisti perché la scrittura è una scrittura per orchestra, ripeto, essenzialmente per archi. In mezzo a loro ci sarà appunto Ben Frost, la direzione di Bierson, quindi in ogni caso sono i veri grandi protagonisti del concerto di domenica. Quindi sarà un evento a partire dalle ore 19, se non sbaglio. 19, sì, esattamente. Abbiamo messo le 19. Si protrarrà nella serata. Sì, è veramente un bel appuntamento. Bene. Tiene assieme una visione sul cinema che sfocia nell'arte, nell'arte contemporanea, e nel tempo stesso un lavoro sulla musica, che è una musica del nostro tempo, dei nostri giorni, con una grande interpretazione orchestrale. Benissimo. Allora, ci ricordi tutti i riferimenti web per le informazioni? romaeuropa.net è il nostro sito dove potete trovare tutte quante le informazioni, e l'appuntamento con Music for Solaris, Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Brian Eno, Nick Robertson, Ben Frost e Daniel Biasson è per domenica 20 novembre alle 19 alla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica. Un abbraccio, un ringraziamento, un in bocca al lupo, Fabrizio. Sono io che ringrazio voi tantissimo. A presto. Ciao. Ciao. Fabrizio Grifasi, direttore del Roma Europa Festival. Francesco Melzi di Good Films sulla distribuzione di Agnus Dei, in uscita in sala oggi giovedì 17 novembre, film al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana con una foto di scena. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Raccontiamo un po' il fatto, qual è la vicenda raccontata nel film? È una vicenda avvenuta realmente alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Polonia. Una giovane dottoressa della Croce Rossa francese, interpretata nel film da Lou Delage, si trova a dover aiutare, viene chiamata da una suora di un convento vicino al campo della Croce Rossa perché ha bisogno d'aiuto. Questa suora porta la ragazza nel convento e scopre che c'è una suora incinta, l'aiuta, è un convento di clausura, e scopre dopo l'aiuta nel corso di varie giornate si reca regolarmente al convento per sincerarsi delle condizioni della suora. Scopre che nel convento ci sono più suore incinta, varie ragazze che sono incinta, e scopre che sono incinta perché erano state vittime di una violenza di gruppo da parte di soldati dell'Armata Rossa che erano entrati nel convento, e quindi tantissime suore erano state violentate e quindi molti di loro sono rimaste incinta. La ragazza, fondamentalmente da sola e poi con l'aiuto del suo superiore, un altro medico, cercherà di aiutare a partorire queste suore. Si deve scontrare, tra l'altro, ovviamente con resistenze e vergogne da parte sia delle stesse suore che, per esempio, della loro madre superiora, che ritiene che tutta la vicenda debba essere cancellata e coperta da segreto perché la considera comunque un'ignominia. Questa giovane donna aiuta le suore quindi a partorire, poi il film poi finisce tra l'altro anche bene, nel senso che poi queste donne acquisiranno anche consapevolezza di quello che sta succedendo e tra l'altro riusciranno a occuparsi dei propri bambini. È una storia molto forte, è una storia di donne, è una storia molto forte, molto interessante. In Francia ha avuto un film che ha avuto un grandissimo successo la primavera scorsa, ha fatto 800.000 entrate, 800.000 spettatori in Francia, una vicenda che ha colpito molto, è stato il film francese più visto negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni, quindi è un film che ovunque venga presentato viene accolto con un grande favore ed è molto amato. anche perché la storia, dicevi, molto forte, ci sono queste donne che si ritrovano tra due a scontrarsi con due realtà: da una parte i militari e gli stupri di guerra che continuano ad avvenire in ogni conflitto, tra l'altro, e dall'altro il credo religioso. Loro tra l'altro erano suore di clausura, e una madre badessa che la vediamo all'inizio del film, prende uno di questi bambini in fasce e lo abbandona nel bosco sperando nella divina provvidenza. Ecco, si trovano tra due fuochi praticamente. Con questa gravidanza, certo, devono risolvere questa situazione. Certo, perché come hai detto tu, sono delle suore di clausura che quindi per definizione non dovrebbero avere contatti col mondo e men che meno evidentemente rapporti sessuali. Sono forzate brutalmente a questo. Devo dire che nel film non ci sono scene da questo punto di vista a livello visivo forte, perché non si assiste a questi stupri per fortuna nel film, anche perché sono già successi quando la storia si svolge. Però sì, certo, sono combattute da un lato dalla vergogna, da quello che era stato il loro commitment come religiose, dall'altro sono donne che stanno per partorire un bambino, comunque anche se frutto dello stupro. Sì, sì. Quindi certo che c'è questa fortissima dibattito interno, psicologico all'interno delle ragazze, diciamo, e poi anche, ripeto, anche la gerarchia del convento, la madre superiore, per esempio, completamente non accetta questa situazione. Tra l'altro lei stessa è vittima dello stupro dei soldati russi. Sì, sì. Tra l'altro russi e soldati che continuano ad essere una presenza incombente, ogni tanto fanno anche irruzione nel convento. Nel convento la ragazza, interpretata da Ludelager, la Croce Rossina, rischia anche lei ad un posto di blocco, sì, di essere violentata. Certo, sono come tutte come tutti i soldi, le armate di conquistatori, sono in tutte le guerre, a tutte le latitudini, hanno campo libero, sì. Ovviamente chi ci rimette per primi sono i deboli e le donne, in questo caso le religiose, nel caso dell'ISIS le donne yazide in Siria e via dicendo. Sì. E tra l'altro tu dicevi comunque non possono neanche confidarsi tra loro, perché insomma vige questa cappa anche di silenzio legata alla fede religiosa, per cui insomma ognuna vive interiormente il proprio dramma. Certo. Senti, e poi lo vivono diversamente. C'è chi si libera proprio del peso proprio anche dell'essere religiosa, c'è chi invece lo vive diversamente. Cioè, ognuna tra le suore vivono molto diversamente proprio quella vicenda. Sì. C'è chi rinuncia poi ai voti. Esatto, c'è addirittura chi rinuncia ai voti, fa il figlio, molla il figlio a qualcuno che potrebbe occuparsene meglio e se ne va. Sì. Francesco, dove avete incontrato il film e come avete poi scelto la distribuzione? Guarda, io l'ho visto un po' di mesi fa a Parigi, all'interno di questi incontri del cinema francese. È un film che ho subito amato moltissimo e l'ho acquisito prima dell'uscita in Francia. E quindi poi abbiamo aspettato un po' per distribuirlo, attendendo il momento più propizio, speriamo, per l'uscita italiana. In quante sale? Facciamo un'uscita un po' particolare questa volta, che usciamo solo in tre sale questa settimana, oggi, al Fiamma di Roma, all'Arlecchino di Milano e al Cinema Nazionale di Torino. E poi successivamente, settimana prossima, saremo in circa 60 sale dal 24 novembre. I riferimenti web per saperne di più sono quelli della Good Films. I soldi della Good Films, sì, esatto. Benissimo. Oppure sempre su Facebook, Good Films su Facebook anche. Allora, un abbraccio. Il film è stato anche presentato, ecco, voglio solo dire, sì, questo, è stato presentato a varie gerarchie religiose a Roma, in varie occasioni, ed è stato molto amato. Abbiamo presentato in persona Luigi dei Francesi due o tre volte, è stato anche presentato in Vaticano, e credo che sia giusto anche averlo fatto vedere. E ripeto, il film è stato, il film di Anne Fontaine è stato accolto molto bene. Benissimo. Anche da, da suore, da religioso, insomma. Allora, Francesco, un abbraccio, a risentirci presto. Arrivederci, grazie mille. Ciao. Grazie. Francesco Melzi di Good Films sulla distribuzione del film Agnus Dei, in uscita in sala oggi giovedì 17 novembre. Daniele Lupi del Cine Club de Tour per parlare di Mondovisioni, documentari di internazionale dal 17 al 20 di novembre, quindi da oggi, a partire da oggi. Daniele, ben ritrovato. Ciao, ciao, ben trovati a voi, come state? Bene, bene. Tra l'altro abbiamo già avuto modo di parlare dei documentari di internazionale per la rassegna che hanno fatto qui a Roma al Palazzo delle Esposizioni, ora arrivano al Cine Club de Tour. Dici un po' di questa connection. La connection ormai sembra andare a consolidarsi, perché è il secondo anno che collaboriamo con Internazionale e con Cineagenzia, che è l'agenzia di cui si avvalgono per la distribuzione di questi bei documentari. E veniamo come sempre dopo la settimana di rassegna del Palazzo delle Esposizioni, che per inciso lì è gratuita, mentre insomma da noi invece è per i soci e con un contributo per ogni proiezione, e degli 8 film scelti da e Internazionale per rappresentare un po' l'attualità in varie parti del mondo, e noi ne abbiamo presi 6 e questi 6 li proietteremo, appunto, come detto tu, in questi 4 giorni, proiettandone uno oggi, uno domani, 2 sabato e 2 domenica. Devo dire che sono veramente dei bei documentari, come sempre, insomma. Io mi ricordo già da tanti anni che li seguivo, documentari Internazionale, come spettatore, è veramente un piacere, quindi anche per questo portarli, essere riusciti a portarli al Detour. Senti, Internazionale, poi tra l'altro, scusa, sì, Federico, è stato media partner del nostro festival, quindi diciamo una collaborazione che va anche oltre la semplice programmazione. Senti, di questi 6 documentari cosa ci dici? Ah, ti dico che cominciamo questa sera con un bellissimo film, Among the Believers, che tra l'altro credo che poi in futuro sarà forse anche distribuito dai Wonder Pictures in sala, perché è il tema è molto attuale, ovviamente, no? Se stiamo in Pakistan e siamo all'interno di una scuola talebana, tra virgolette, e quindi è un posto dove si incita e si insegna la jihad, no? E quindi il regista è stato lì, ha vissuto lì, e ci vengono mostrati i metodi di insegnamento, si parla, vengono intervistati quindi rappresentanti di questa scuola, di questa utopia islamica, diciamo così, come la definisce il film, ed è molto interessante. Mentre domani con Alcaldesa invece passeremo in Spagna per raccontare la storia di Ada Colau, quindi questa movimentista, chiamiamolo così, del barcelloneta, che è riuscita a diventare sindaco di Barcellona in un arco molto breve di tempo. Poi questa esperienza, lei che ha iniziato come cittadina attiva e si è ritrovata poi ai vertici di un movimento. E i documentari, come detto, sono molto interessanti. Io devo dire che sono rimasto, quando siamo stati a scegliere quali di questi 6 su 8 fare, quali dei 2 non fare, io avevo un dubbio su questo documentario che si chiama Under the Gun, perché parla della diffusione delle armi in America. Sì. Come vedi, si spazia veramente tanto con i documentari di Internazionale, dal, sì, Pakistan, sì, alla, sì, Spagna, sì, America, anche Corea del Sud, e questo secondo me era un tema già trattato da tantissimi documentari, da Michael Moore in poi, no? E invece devo dire che lo tratta in maniera originale, e soprattutto indagare un po' come agisce questa National Rifle Association, come appunto dal punto di vista lobbistico, cioè riesce a influenzare la politica del Senato e degli Stati Uniti, e poi mi sembra molto attuale parlarne adesso visto che hanno sostenuto Trump. Sì, quindi a maggior ragione, questo lo sottolineo, sarà l'ultimo domenica alle 20, ma appunto, come detto, Tiglin Giants, siamo in Egitto, siamo dalle parti di un dottore, un chirurgo, ma che è anche un commediante, che è stato un popolare presentatore TV, un commediante, non so, alla Crozza, no? Una figura così molto popolare, con una satira molto aggressiva su Fratelli Musulmani e tutto quello che è successo dalla caduta di Mubarak in Egitto fino ad oggi, quindi la sua esperienza e ovviamente la guerra quotidiana con la censura in quel paese. Poi The Girl Who Saved My Life, che è un viaggio dall'Alpezia al Kurdistan. Sono molto, molto interessanti questi film, sono da seguire, e devo dire che vedendo insomma le prenotazioni che arrivano sul nostro sito, perché sul nostro sito ci si può pretesserare e si possono anche prenotare, devo dire che abbiamo un buon numero di prenotazioni un po' per tutti i titoli, quindi l'attenzione poi delle persone si sposta, c'è chi ne fa prenotati due, tre e chi uno solo, ma devo dire che sono molto anche come tematiche sono molto diverse tra loro e quindi sono anche molto focalizzate. Senti, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione? Sì, riferimento web come sempre è cinedetour.it, siamo anche su Facebook come Cinedetour e anche su Twitter. Se posso, in due secondi, certo, do anche due anticipazioni del fine settimana successivo, quindi stiamo parlando del 23, 24, 25 e 26, credo, adesso non ricordo bene come il prossimo fine settimana, ma sicuramente proietteremo nuovamente dei titoli che stanno andando molto bene dalle nostre parti, ovvero Mapplethorpe, Look at the Pictures, documentario su Robert Mapplethorpe, fotografo estremo, come è estremo anche il documentario, pieno di immagini molto forti, e Mani Blues, che invece è stata una nostra anteprima nazionale proposta per il festival, che ha avuto un ottimo successo nella proiezione festivaliera, e dialogando con la produzione tedesca siamo riusciti a trovare un accordo per proiettarlo nuovamente, lo abbiamo proiettato già una settimana fa, è stato un nuovo sold out, lo faremo ancora quindi nel fine settimana, non questo, il successivo. Benissimo, allora Daniele, un abbraccio, a risentirci presto. A presto Federico, ciao, grazie. Ciao. Daniele Lupi del Cine Club de Tour per parlarci di Mondovisioni, documentari di internazionale, dal 17, quindi da oggi al 20 novembre, 4 giornate per 6 documentari. Emanuela Martini, direttrice della 34esima edizione del Torino Film Festival, da domani 18 novembre fino al 26. Emanuela, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao. Ci siamo quasi, allora, 34 edizioni, e per chi ci ascolta diciamo subito quali sono le peculiarità del Torino Film Festival. Beh, la peculiarità del Torino Film Festival è che in 34 anni, pur cambiando, aggiustandosi, adeguandosi ai tempi e anche alle mutazioni del pubblico, eccetera, eccetera, è riuscito comunque a mantenere una identità, la sua identità molto forte, cioè continua a essere un festival di scoperta di giovani, di scoperta di indipendenti, di giovani anche di spirito naturalmente, di riscoperta di classici, ma anche di tantissimo cinema di genere, di quello che magari alcuni anni fa non veniva fatto nelle retrospettive un po' più togate, e di anche secondo me veramente di grande attenzione a quello che è un pochino il magma del cinema contemporaneo, nel quale non si può dire che esistano tendenze, filoni ai quali attenersi specificamente, e del pubblico contemporaneo, che è un pubblico poi in realtà, perlomeno lo è qui a Torino, molto misto, molto variato, anche se con una grossa prevalenza di giovani. Com'è suddiviso quest'anno il festival? Il festival è suddiviso come era suddiviso anche gli anni passati, cioè il concorso principale, che è dedicato ai lungometraggi internazionali, che sono 15 titoli, e tutti quanti opere prime o seconde. Questo è il segno forte appunto del Torino Film Festival come momento di scoperta. E gli altri concorsi, c'è un concorso documentari italiani, un concorso documentari internazionali e il concorso cortometraggi italiani. Poi c'è la grande sezione, grande soprattutto quantitativamente intendo, Festa Mobile, che è una sezione molto libera nella quale noi mettiamo tutti i film che ci sono piaciuti durante l'anno. Ecco, premetto tra l'altro che al Torino Film Festival passano solo ed esclusivamente, tranne che per le retrospettive, film inediti almeno in Italia. Sono anche una cinquantina di anteprime mondiali, per dire, quest'anno, e andiamo in giro per i festival oppure ci arriva un sacco di film. Quest'anno abbiamo visionato circa 4.000 film. Crescono tra l'altro esponenzialmente, l'anno scorso erano 3.000, quest'anno siamo arrivati a 4.000, è un lavoraccio proprio. E mettiamo le cose che ci sono molto piaciute, oppure anche film molto attesi che ancora non sono usciti, tipo quello che tutti stanno aspettando in realtà, Sully, il film di Clint Eastwood su Sully Sullenberg, oppure Roberto Bolle, L'arte della danza, il film con Bolle sul suo lavoro di artista e capo di una compagnia, ma anche tantissimi film molto più piccoli, sì, che magari per qualche motivo non sono entrati nel concorso, spesso perché non sono più leggibili, nel senso Ben Wheatley è uno degli autori straordinari tra i giovani autori inglesi, sicuramente il più bravo, che però è già un quinto film, per cui è già tanto che non lo possiamo mettere in concorso, che fa la chiusura con Free Fire, che è un film assolutamente esplosivo e secondo me divertentissimo. E poi c'è anche tutta una serie, sempre all'interno del Festa Mobile, di recuperi, cioè film d'epoca restaurati. C'è, vabbè, ne parlano tutti, versione 198 minuti restauro di Intolerance, del quale quest'anno è il centenario dalla prima uscita, il restauro fatto dal Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale di Roma di Palombella Rossa di Nanni Moretti, sì, e l'omaggio a David Bowie, che è Furio, Merry Christmas Mr. Lawrence di Nagisa. Ci sono, cioè, l'abbiamo chiamata Festa Vintage, quella parte lì. Senti. Poi c'è la sezione notturna, sì, che si chiama After Hours, che non è solo horror come si tende a dire, ci sono molti horror, c'è, è virtualmente aperta dalla notte horror, che è il primo sabato, per cui tre horror uno di fila all'altro a partire dalla mezzanotte di sabato al Cinema Massimo 1. L'abbiamo inaugurata l'anno scorso, è andata benissimo, per cui quest'anno ovviamente la rifacciamo. Ma sono anche molti film bizzarri, stravaganti, di genere, ma non solo di genere, mockumentaries per esempio e cose di questo genere. Mm-hmm. Sezione sperimentale che è Onde, e poi le sezioni storiche. Ok, senti, rispetto al giovane cinema italiano, che mi dici, che direzione sta prendendo, che novità ci sono quest'anno? Allora, film italiani in concorso ce n'è uno, l'anno scorso ce n'erano quattro, quest'anno ce n'è uno, però va detto che, pensateci un attimo, a Cannes non c'era nessun film italiano in concorso, a Venezia ce n'erano solo tre, di solito Venezia ne ha anche di più, cioè quest'anno gli indipendenti, che sono poi di solito quelli che interessano a noi a Torino per il concorso, erano tutti indietro, cioè molte cose che avremmo dovuto vedere non erano pronte, non erano finite. Mm-hmm. E il film che abbiamo messo in concorso è sentito I figli della notte, ed è il film di Andrea De Sica, cognome importante, cognome pesante, immagino, soprattutto per un esordiente al cinema, perché è la terza generazione di De Sica, nipote di Vittorio, figlio di Manuel. Però fuori ce ne sono moltissimi altri, veramente ci sono tutti i documentari, e noi sappiamo che ormai il confine tra documentario e finzione è abbastanza esile, sì. Infatti Fuoco a Mare vince Berlino, e che molti dei migliori giovani registi italiani vengono proprio dal documentario. Ma ci sono documentari anche in Festa Mobile, c'è un documentario molto bello che si chiama La felicità umana di Maurizio Zaccaro, che è andato in giro per 3 anni per tutto il mondo a chiedere a intellettuali, politici, artisti, una domanda difficilissima: che cos'è la felicità? Oppure esiste ancora per lei la felicità? E poi altre cose, c'è un film di Daniele Segre, un film di Bruno Bigoni, un film di Steve Della Casa. Come stanno? Ma insomma, il cinema italiano sta bene sostanzialmente, cioè c'è appunto tutto quel settore che sfuma tra finzione e documentario, tutto quel settore indipendente in cui nascono veramente i nuovi talenti, non solo in Italia, in realtà è un appunto è un tipo di cinema nel quale si stanno cimentando anche in tutti quanti gli altri paesi. Devo dire che il continente che abbiamo trovato più ricco quest'anno, non credo soltanto noi, però si tratta appunto di un continente, abbiamo anche dovuto lasciare fuori dei film, è l'America Latina. Infatti ci sono 4 film latinoamericani in concorso, però appunto è un continente, come se un latinoamericano dicesse ci sono 4 film europei, sono paesi diversi, quindi culture diverse. Senti Emanuela, in chiusura i riferimenti web sono il sito internet e la pagina Facebook. Esatto. Ok. Allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo e buon divertimento se venite. Ciao Emanuela, a presto. Ciao. Emanuela Martini, direttrice della 34esima edizione del Torino Film Festival, da domani 18 novembre fino al 26. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. In collegamento con Romano Fattorossi, direttore della 26esima edizione di InVideo a Milano da oggi 17 novembre fino al 20. Romano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, piacere di ritrovarti. Allora, cominciano ad essere tanti gli anni, 26esima edizione, cos'è InVideo, Romano? Allora, InVideo è un festival di video e cinema sperimentale, per capirsi, per contestualizzarlo. Da noi, noi ci dedichiamo a quello che è la ricerca sull'immagine, per dire, sono passati da noi dalla Vardà, Martone, Mabil Viola, abbiamo fatto vedere il Kinautomat, che quelli sono dei film, che era un film cieco si votava e si diceva volete che succeda questa cosa o quest'altra, ogni volta si sceglieva l'itinerario, la scena successiva del film, quindi tutti i tipi di sperimentazioni possibili e immaginabili se vuoi. Questa è un po' la chiave di volta di InVideo. 26 edizioni sono tante, io lo dirigo dalla prima, sono quasi vado in pensione, guarda. Ma, largo ai giovani, ma detto questo, quest'anno abbiamo fatto una selezione molto molto, poi devo aggiungere che lo dirigo, ma lo dirigo insieme a Sandra Rischi, siamo in due e ci dividiamo gli oneri e gli onori della cosa. Quest'anno abbiamo fatto una selezione molto stretta, abbiamo selezionato 38 opere che secondo noi sono veramente il meglio del meglio, ma nella ricerca di a livelli più, cioè non c'è una linea precisa, cioè il rifatto di Zagabri ha filmato attraverso le immagini riflesse su tutte le superfici riflettenti, che possono essere le vetrine, che possono essere le pozzanghere, e viene un ritratto estremamente coinvolgente. C'è Pep Show di Tagliafierro, che è un'animazione delle figure erotiche nella pittura classica, quindi il quadro viene animato che ha degli effetti straordinari e via così. Per questo, per darci un pochino la ricchezza, la vastità. Però c'è anche per esempio un ritratto di Welby che viene fatto vedere per la prima volta, che è un documentario, il tema è Welby, sappiamo tutti chi è, no? Sì. Ma il ritratto è fatto attraverso suoi pezzi di diario, sue immagini, ma anche animazioni, ma anche installazioni dedicate a lui, e ne viene fuori un ritratto assolutamente inconsueto, inedito, strano, avvincente. Sì, poi sì. Vado avanti a raccontarti sulle cose che ci sono. Sì, io abbiamo, ero anche più nel complesso curioso di sapere, visto che comunque tu segui dalla prima edizione, siamo a 26 edizione, come si è sviluppato rispetto anche ai presupposti iniziali il festival romano? Ma sai, la grandissima rivoluzione, come puoi immaginare, come è stato per tutti i settori cinematografici, è stata quella digitale. Eh sì. Il digitale ha fatto sì, per usare una battuta, non mi ricordo, credo che sia di Valentino Bompiani, che diceva: l'arte è una chiamata alla quale rispondono anche quelli che non dovrebbero rispondere. per cui è diventato molto facile, sì, far vedere, fare un'opera. E noi quindi, quando nella selezione, mentre, cioè prima c'era, diciamo, come le fotografie, adesso vedi gente che fotografa ovunque, sempre, sì, comunque, sì, no? Sì. E succede un po' la stessa cosa, tanto non costa nulla. E ti arrivano, quindi la selezione, diciamo che è diventata più faticosa. Eh sì. Per carità, il digitale poi ha anche permesso sicuramente a un sacco di persone di riuscire a diventare autori, se no non sarebbero mai riusciti, perché il digitale ti permette veramente di montare da solo, di elaborare la musica, di fare tutto tu. Però non sempre i risultati sono strepitosi. Diciamo che questa è stata la rivoluzione più grossa. Sì. L'altra rivoluzione è che all'inizio si ragionava il primo avvento della video arte, Nam June Paik, per capirsi, era legato all'alleggerimento dei mezzi di produzione rispetto alla truppa tradizionale, al cinema, alle macchine, e quindi aveva un'immediatezza che era la freschezza, la specificità della videoarte. Quel momento lì è finito poi ancora prima del digitale, con l'avvento di tutte le apparecchiature molto più sofisticate, ecco, insomma, sì. Per cui c'è stata una fase pionieristica, una fase, chiamiamola matura, e una fase digitale, ecco, sono queste, sì, per sintetizzare molto una cosa. Senti, quante opere saranno presentate al festival? Allora, sono presentate queste 38 opere dalla selezione. Okay. E poi molte altre, per esempio c'è una personale di Alessandro Amaducci, che è un artista che noi amiamo molto, che sta diventando sempre più noir, sempre più dark, sempre più cupo, al limite della necrofilia, diciamo. Ma che è molto interessante come autore. E quindi lì, diciamo, fra tutte le opere che presentiamo, alla fine saranno un centinaio. Senti, da che minutaggio a che minutaggio, più o meno? Ma figurati, da minuto e mezzo, di opere proprio flash, a opere di come Welby dura 65 minuti. Okay, 70 minuti. Okay. Quindi c'è un pochino di tutto. Noi tendiamo a non darci limiti né di genere né di durata. L'unica cosa è che devono essere opere, a meno che non siano personali, così, opere realizzate nell'ultimo anno, massimo due anni. Sì, sì, sì, sì. Senti, sono previsti anche incontri con gli autori? Sì, certo. Sono previsti un sacco di incontri con gli autori, sono previsti questo con Amaducci, te l'ho appena detto, ma per esempio ci sono anche per poi degli approfondimenti. Facciamo un incontro sul rapporto fra videogame e cinema, che, no, che è una cosa che gli effetti speciali hanno portato tutta una serie di cose al cinema. Contemporaneamente il videogioco ha fatto sì che si è avvicinato sempre più al cinema, e adesso c'è uno scambio continuo. Se pensi, ci sono dei film tratti dai videogiochi e dei videogiochi ispirati al cinema, c'è un interscambio continuo fra questi due elementi, quindi ci è sembrato il caso di approfondirlo questo ragionamento. Bene. Senti, gli incontri che volevo segnalare, un, sì, altro, sì, a cui teniamo molto, abbiamo invitato, noi ogni anno ospitiamo un festival, quest'anno abbiamo invitato il direttore e anche fondatore del festival di Clermont-Ferrand in Francia, che è Georges Bollon, che viene, Clermont è il festival più importante al mondo sui cortometraggi, diciamo che dopo Cannes è stato più importante in Francia, e verrà a raccontarci un po' questo mondo del corto in tutte le sue sfaccettature, portando una selezione di opere da Clermont. Ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Web, allora, noi innanzitutto sul nostro sito, che è mostrainvideo.com, si trova tutto il programma e tutto quanto, ma anche il catalogo, si può tranquillamente scaricare, sfogliare oppure scaricare dei pezzi come si vuole, quindi è in modo del tutto gratuito. Posso dirvi che si entra con una tessera accumulativa che costa 5 euro e quindi basta, direi che no, ma poi non ci ho detto dove si svolge la cosa. Si svolge allo spazio Oberdan, okay, di Milano, che è la sala della Cineteca, che sta più o meno a Porta Venezia. E per le tre masterclass, approfondimenti che facciamo con Daniele Segre, che parlerà dell'arte del ritratto, con i Carmachina, che parlano di videomapping, della loro esperienza di illustrare la città. I Carmachina sono un'emanazione, hanno fatto varie cose, sono passati per il Studio Azzurro e animano le città, diciamo, e Alessandro Manucci, di cui ho parlato prima, che fanno tre lezioni allo IED, che è in via Scese, piazza 5 Giornate a Milano. Questi sono i due riferimenti del festival. Benissimo, allora un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima, Romano. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao. Romano Fattorossi, direttore della 26esima edizione di InVideo a Milano dal 17 al 20 novembre. Ed eccolo il collegamento con Ilaria Borrelli, regista del film Talking to the Trees, in uscita in sala oggi giovedì 17 novembre. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuti, grazie. Allora, per chi ci ascolta, di cosa si parla? Cos'è questo film? Guarda, è un film che ho girato in Cambogia, che tratta di un tema che è scottante, che è la prostituzione infantile, però è fatto con molta poesia, con molto pudore e anche con un po' di thriller, quindi è piacevole da guardare. Talking to the Trees, il 20 sarò al Cinema Farnese a Roma, il 25 all'Alfieri, queste sono le presentazioni che faccio all'Alfieri di Firenze, il 30 al Modernissimo di Napoli, insomma, poi l'ho cercate le date sulla pagina Facebook Talking to the Trees, parlando agli alberi. Ok, Ilaria, come era nato il progetto? Era nato che da quando sono mamma e nei bambini che soffrono vedo sempre gli occhi dei miei figli, quindi quello che so fare è fare film e ho cercato di fare la mia parte con questo film. Sono un idealista, credo che con il cinema si può cambiare un po' la mentalità delle persone, si può migliorare un po'. Senti, com'è stata la lavorazione? Siamo stati 3 mesi in tutto, un mese e mezzo di preparazione, un mese e mezzo di girato, e è stato un po' complicato il casting perché ovviamente queste mamme non volevano darmi le bambine per un ruolo delle piccole prostitute, quindi è stato un po' complicato ottenere le bambine, però poi è andato tutto bene, insomma, tranne certo le sanguisughe nelle foreste e le bombe inesplose che abbiamo trovato a fianco della camera qualche volta, insomma. Senti, per l'uscita in Italia, quindi è prevista questa serie di proiezioni accompagnate dalla tua presenza? Sì, queste che gli ho detto sono tutte con la mia presenza. Allora, il Cinema Farnese il 20 a Roma, il 25 all'Alfieri di Firenze, il 30 al Modernissimo di Napoli. Sosteneteci, okay. È un piccolo film, quindi venite numerosi. I riferimenti ce li hai dati per la pagina Facebook. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Ilaria. Grazie, credi, a presto, ciao. Ciao. Questa era Ilaria Borrelli, regista del film Talking to the Trees, in uscita in sala oggi giovedì 17 novembre, e con lei concludiamo questo appuntamento settimanale con Visionari, la puntata di oggi giovedì 17 novembre 2016. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. Le informazioni sulla trasmissione e sulla scaletta di oggi le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.